Ok, buonasera, benvenute e benvenuti a Cabaret Voltaire, al nostro secondo appuntamento dell'anno. Questa sera ho deciso di invitare Nina, che è un'illustratrice, e per cui il progetto in questo caso è una mostra delle sue ultime illustrazioni, e il progetto che presentiamo stasera si chiama Incontri Animali, che è un progetto che è nato nel 2024, se non mi sbaglio, durante una residenza che Nina ha fatto a Teramo, in Abruzzo. E, però forse lascerei la parola direttamente a lei, che un po' ti direi se vuoi presentarti, chi sei e un po' il tuo lavoro, e poi magari entrare più nel merito di questo progetto che questa sera inauguriamo. Buonasera. Buonasera, sono Nina Lunderskov. Allora sì, Incontri Animali nasce principalmente nel 2024, quando diciamo ho passato tre mesi a Teramo per un tirocinio, e quindi diciamo ho avuto un periodo di, diciamo, se possiamo chiamarla introspezione, di momenti anche di solitudine, che possono essere quindi anche positivi o negativi, e quindi è stato un momento anche di creatività, e quindi ho deciso di diciamo provare un altro mezzo artistico che non avevo mai utilizzato, che diciamo è stata la stampa digitale, diciamo, e quindi ho cominciato a disegnare su Illustrator, e quindi diciamo un po' naturalmente, senza avere un'idea diciamo specifica prima, ho incominciato diciamo a disegnare queste linee morbide, un po' ispirate alla natura, quindi infatti, come poi si potrà vedere, sono spesso ispirate appunto alla natura, agli animali, all'essere umano in generale, ed è comunque un argomento che mi ha sempre interessato fin da piccola. E infatti poi nel corso del tempo ho avuto anche l'opportunità, esempio durante la mia triennale, per la tesi triennale ho portato una ricerca, diciamo, sulla poetica di Boyce, focalizzandomi sul rapporto tra uomo e animale. E quindi poi quasi inconsapevolmente, diciamo, ho un po' ritrovato in questi disegni quello che diciamo mi è sempre interessato, quello che poi delle ricerche, diciamo, che avevo già iniziato di mio. No, infatti mi sembra assolutamente evidente dalle opere che abbiamo deciso di esporre questa sera che il tema principale, il fil rouge tra le opere, sia proprio questa connessione di analisi un po' tra il rapporto tra l'uomo e l'animale e l'uomo e la natura, che è stato uno dei fondamenti del lavoro di Joseph Beuys, che, giusto perché magari non tutti conoscono, dico due parole, è appunto un artista tedesco del Novecento, che è vissuto proprio dagli inizi fino al 1986, e è stato forse uno dei primi, non, se così si può dire, diciamo, che hanno inaugurato anche il tema della land art, quindi di tutta quell'arte, quella corrente artistica che poi anche negli Stati Uniti soprattutto ha preso un po' il sopravvento nella seconda metà del Novecento, e che ha molto messo al centro appunto questa indagine del rapportarsi, no, dell'uomo, e di come la nostra vita, il nostro costruire, il nostro vivere anche consumistico, eccetera, abbia un impatto sulla natura, e come forse ritrovare un po' quella dimensione genuina, bambinesca e pura, che è invece relegata più al mondo naturale e animale. Infatti mi sento di dire che anche nella tua scelta espressiva artistica si può ritrovare anche una connessione con insomma, un artista in particolare che, di cui avevamo parlato quando poi avevamo stavamo organizzando come insomma, mi raccontavi il tuo progetto, ecco, che è Ferdinand Léger, che invece è un artista sempre del, diciamo, più a cavallo tra 8 e 900, però legato alla corrente più cubista, astratta, e quindi ho trovato molto interessante quando mi hai fatto vedere le opere come non solo il tuo tema fosse legato in questo senso a anche una visione infantile e pura del mondo, ma anche che proprio la tua scelta poi artistica andasse in questa direzione, perché gli artisti cubisti, come non so, Picasso, per dirne uno a caso, hanno un po' questo intento, no? Cioè di magari anche distruggere la forma e riproporre una visione delle cose che non sia influenzata da diciamo, i costrutti che poi, crescendo, la nostra società un po' ci impone, e invece presentare delle immagini che il più possibile lasciano all'interpretazione, in modo tale che si rientri più in connessione con le proprie emozioni, con appunto una dimensione anche più infantile, che credo che in qualche modo governi anche il tuo stile e le tue opere in generale. Però, tornando a Bois, ti chiederei se vuoi raccontarci un po' di più qual è stato il tuo primo contatto con la sua poetica, cosa ti ha colpito, e quindi in qualche modo come le tue opere riflettono un po' la sua ricerca, perché poi lui ha fatto anche tantissime cose, come dire, è stato un artista anche molto politico, quindi non so, aveva fatto il trattato sull'agricoltura, sull'importanza, ha fatto insomma delle performance anche a Kassel molto famose, di aveva piantato 700 alberi per ridare diciamo in qualche modo la natura al mondo, quindi non so se questo aspetto invece si ritrova nelle tue opere o forse nella tua filosofia, o invece è più appunto questo aspetto più naturalistico che hai voluto privilegiare. Allora, quindi, come avevo già anticipato, ho avuto l'opportunità, diciamo, di un po' studiare meglio la poetica di Bois per la mia tesi di laurea. Diciamo che gli aspetti che fin da subito mi hanno un po' incuriosito era il primo, principalmente, che secondo Bois l'artista era in generale colui che partecipava alla, diciamo, contribuiva alla costruzione della comunità, della società, quindi dall'agricoltore al muratore, quindi era che poi lui chiamerà più specificamente scultura sociale, no? Quindi questa idea di, soprattutto mi piace, soprattutto in un momento storico come questo, che c'è sempre la ricerca. Abbiamo sempre questo bisogno di sentirsi speciali, essere qualcuno. Tornare all'idea di semplicemente partecipando alla comunità sei già qualcuno, se possiamo dirlo in questo modo, no? Non c'è bisogno di... E quindi questo è una cosa che mi ha molto colpito e che trovo che sia molto contemporaneo, ci sarebbe molto bisogno di... E il secondo invece è più sull'aspetto, diciamo, dell'animale, dell'animalità, e in quanto secondo Bois l'animale era un veicolo di insegnamento, anche se non dotato, diciamo, della ragione e della parola, no? E questa cosa io la condivido molto, anche pensando a quando ero bambina, da piccola, diciamo, quante gli animali mi hanno insegnato, no? Anche semplicemente stando vicino al mio cane o altri animali, no? Quindi diciamo, questi sono stati i due punti che mi hanno... No, ma infatti, perché mi sento di entrare più nel merito anche di questo aspetto, perché sempre appunto per spiegare un po' meglio a chi magari non conosce bene Joseph Bois, eccetera, tu hai detto una cosa molto giusta, no? Cioè, come gli animali siano in grado di insegnarci qualcosa, e credo che quello che era, diciamo, importante in Boyce, e quindi in qualche modo penso che tu abbia riflesso poi nelle tue opere, sia proprio il fatto che l'animalità per Boyce appartiene a quella sfera, anche in qualche modo legata appunto a quello che dicevo prima del tema cubista, no? Di non essere governati dalla razionalità, no? Cioè questo è quello che un po' ci distingue tra virgolette dagli animali, ma in questo senso per Boyce era un fattore aggiunto, perché per lui, diciamo, il fatto di eliminare tutto quella sovrastruttura anche razionale eccetera, che ci impone di vedere magari le cose in un certo modo, e soprattutto magari anche di cominciare a entrare in delle dimensioni di cosa è giusto, cosa è sbagliato, cosa è bene, cosa è male. Invece il senso dell'animalità, tra l'altro citando proprio delle parole di Boyce, è quella parte originaria dell'essere umano che deve essere riconosciuta e riattivata, perché è quella che ci dà accesso alla conoscenza vera, proprio perché è legata più alla sfera sentimentale. E non credo che sia un caso, diciamo, che Boyce poi indaghi tutto questo aspetto, perché non è una cosa, cioè se pensiamo al Novecento tutte le avanguardie hanno un po' rotto, no, in quel periodo, pensando ok, quello che abbiamo imparato fino ad adesso ci ha portato a 2 guerre mondiali, forse è il caso che rimettiamo in discussione quello che abbiamo, come dire, come principi fino ad adesso. E quindi è stato molto alla base di tante ricerche di questi movimenti d'avanguardia, quello di ritornare a una sfera più emotiva per ricercare, come dire, forse una purezza e una verità più pura, mi sento di dire, appunto, più infantile in quel senso lì. Non a caso è anche il periodo in cui c'è, non so, tutta la corrente anche della psicoanalisi di Freud, quindi dell'analisi, non so, del desiderio, dell'inconscio, no? Di tutto quello, non so, se pensiamo a Dalì, cioè la follia di quei dipinti di astratti, però perché il senso era, entriamo nei tabù di quello che non si può dire, no? Distruggiamo quella società borghese, aristocratica che invece appunto rinnega quell'aspetto più animalesco, mi sento di dire. E infatti, a proposito di animalità e anche di animali, per dire, poi Boyce per esempio associava a se stesso l'animale della lepre, no? Cioè lui dice, ci sono tantissimi riferimenti in tutte le sue opere, lui diceva di essere una lepre eccetera, quindi lui aveva un po' un animale guida, e ovviamente anche nei tuoi dipinti quasi tutti, direi, hanno sempre un riferimento al mondo animale. Quindi non so se vuoi approfondire un po' di più in questo senso, se c'è, non so, qualche animale in particolare a cui sei affezionata, che ha un significato per te, e non so, o comunque anche nella scelta delle tue opere, magari perché hai scelto una cosa o un'altra, ecco. Ok, allora, tornando, diciamo, riprendendo un po' il concetto di animalità di Boyce, diciamo che soprattutto al giorno d'oggi a volte io sono nell'idea che il concetto anche animale, soprattutto nel gergo umano, viene visto anche, viene usato anche come dispregiativo, no? Quando si dice, esempio, sei un animale. E invece, diciamo, mi piace questa idea di quindi questo modo di dire sei un animale, come quando come se senza, diciamo, la presenza della ragione ti mancasse qualcosa, diciamo, no? E invece mi piace questa idea che non è che manca qualcosa, ma questa idea di animalità come un diverso modo di approcciarsi alle cose e di ascolto, no? Quindi non legato appunto alla ragione, ma più alle sensazioni e all'istinto, no? Che alla fine ce l'abbiamo anche noi, semplicemente è stato pian piano represso, ecco. E principalmente questa cosa io posso dire di averla provata, diciamo, nell'infanzia, avendo avuto sempre cani a casa, Io mi ricordo che mi mettevo nella cuccia col mio cane, infatti mia mamma mi diceva che mi puzzavo nei capelli perché io dormivo col mio cane nella cuccia, perché per me era il mio porto sicuro, mi calmava. E poi da grande invece l'ho provato con i cavalli, quindi si vedono spesso i cavalli nei miei disegni, perché è l'animale che mi ha più, diciamo, dato questo senso di scambio e di ascolto oltre le parole, ecco. È un animale molto sensibile, molto intelligente, che fa molta paura, molti umani fa paura, secondo me anche per questo, perché sente molto e se non si sente accolto reagisce, può fare anche male. Quindi diciamo che sì, questi due sono gli animali più in cui mi sento presenti. Ritornando alla tua tesi, che appunto io in parte ho letto proprio anche in vista di questo, insomma, di questa inaugurazione di questo progetto, non è solo Bois o diciamo Leger a guidare la tua filosofia anche, ma appunto anche Berger, e soprattutto mi sembra, se mi sbaglio correggimi, soprattutto per il concetto di sguardo restituito, che appunto implica per Berger un processo di scambio e di ritorno in cui, diciamo, sono le immagini che in realtà guardano noi, no? E quindi, sempre per ricollegarci un po' al discorso che stiamo facendo, un po' questa idea che siano delle immagini che cerchino di metterti in discussione, forse, no? E di invogliarti a guardarti dentro, appunto a suscitarti delle emozioni in modo tale che magari poi tu possa guardarti e guardare fuori da te in un modo diverso, e quindi mi chiedo appunto in che modo questo scambio, diciamo, di questo concetto dello sguardo restituito ha influenzato il tuo modo di disegnare in generale, di disegnare gli animali. Ok, allora sì, diciamo, secondo Berger, diciamo, osservando gli animali, quindi lo sguardo umano nei confronti degli animali, fa porre delle domande. È un po' quello che dicevo prima con guardando, diciamo, il cavallo, il rapporto col cavallo, no? Perché infatti poi lui parla anche, fa un esempio di delle pitture rupestri, che infatti i primi soggetti erano appunto gli animali. Ma perché? Perché è stato il primo altro diverso da, diciamo, da noi, no? E quindi è una cosa inconscia. Quando vediamo qualcosa di diverso, inizialmente fa paura, però ci fa porre delle domande anche su di noi, no? E quindi, secondo Berger, l'osservare l'animale, che quindi è diverso da noi, infatti secondo lui il rapporto uomo-animale è parallelo, no? Quindi non si incrocia, perché comunque hanno un modo di vivere, capire il mondo diverso: uno ha la ragione, l'altro ha l'istinto. E, però questo permette all'umano di porsi delle domande, no? Quindi comunque è uno scambio, diciamo, necessario e utile, ed è una convivenza, secondo me, necessaria. E io l'ho, diciamo, un po' ritornando appunto ritornando a parlare di cavalli in Portogallo, io dicendo in breve, 2 anni fa sono stata 6 mesi in un ranch per cavalli, dove, diciamo, erano semplicemente cavalli salvati, quindi vecchi oppure salvati dal macello, e lì hanno tutta un'idea di creare proprio un rapporto col cavallo, quindi non si cavalca, non si diciamo, non si fa l'equitazione classica, ma si fanno delle passeggiate a fianco col cavallo per creare, diciamo, una sorta di connessione, quindi e credo rispetto per l'animale. Esattamente. E mi ha fatto capire anche tante cose, perché comunque io ho fatto equitazione per diversi anni e mi ha fatto rendere conto un po' di quanto prima il rapporto che l'equitazione adesso, cioè che l'equitazione, diciamo, ci fa creare è un rapporto, diciamo, un po' di superiorità umana. Non è proprio un rapporto equo uomo-animale. E io credo che attraverso, diciamo, i miei disegni, appunto, ho in mente, vorrei esprimere questo rapporto, diciamo, equo, di convivenza e di... sì, rispetto ed equilibrio, insomma, non di invasione o di, diciamo, utilizzo dell'animale per il tuo intrattenimento, per il tuo personale bisogno, ma invece che si abbia questa ottica più proprio di dialogo. Esatto. Secondo me infatti esce molto bene. Allora forse ti chiedo una cosa più sul tuo stile, cioè perché appunto tu anche all'inizio hai detto grazie a questa diciamo residenza che ho fatto mi sono approcciata anche al disegno su tavola, no? Cioè diciamo digitale, quindi forse un po' ti chiedo in generale il tuo percorso artistico, diciamo, o perché magari hai scelto di provare questa tecnica, se prima ne hai provate altre, cosa significa per te. E poi magari invece entrando più nel merito delle opere che esponiamo stasera, raccontare un po' la tua tecnica, il tuo stile, diciamo, non so se appunto anche la scelta dei colori, del modo di disegnare abbia un senso, e quindi magari di parlare più proprio del tuo modo di disegnare, anche cosa rappresenta per te, e quindi non so se in questo senso anche appunto perché me lo dicevi, come Léger in generale, magari quella corrente artistica, ti abbiano influenzato in particolare. Ok, allora io in generale in realtà sono sempre stata molto diciamo pratica e tattile. Quindi ho sempre disegnato, in generale disegnato molto con pastelli, matite, sempre disegno, devo dire, poco pittura. E poi ho fatto molta ceramica anche. E quindi in verità inizialmente quando ho iniziato questa nuova tecnica ero anche un po' scettica, un po' imparita, un po'... è nata... avendo l'opportunità di usare il programma, e quindi ho detto, visto che ho la possibilità, però sono dell'idea che a volte le opportunità nascono anche così, no? Non perché le hai decise, ma avendo l'opportunità di poter usare il programma ho detto usiamolo, e in effetti poi mi sono trovata bene e mi ha dato l'opportunità di oltre appunto di usare un'altra tecnica, di smuovermi anche un po', perché era un periodo in verità che non disegnavo da tanto, quindi mi ha dato un po' una spinta. E invece diciamo le forme, diciamo, morbide, un po' infantili, che diciamo possiamo dire anche che ricordano molto, possono ricordare un po' Léger. Allora, Léger per me ha un legame molto intimo, nel senso che è la mia primissima mostra che io ho visto quando avevo 3 anni, e quindi ho questo ricordo che mia mamma mi racconta, ovviamente perché io non mi ricordo, che appunto a questa mostra io ero completamente in un altro mondo, ero completamente esaltata a vedere questi colori, queste forme. E quindi diciamo in generale da quando sono piccola è sempre rimasto un po' il mio punto di riferimento. E poi molto probabilmente anche inconsciamente, cioè credo che linee morbidi, un po' infantili, si legano molto bene con l'idea appunto della natura, dell'animalità, di qualcosa di primordiale, se vogliamo dirlo in questo modo. Ed è qualcosa che nasce, diciamo, anche diciamo, i miei disegni nascono tutti con la casualità al momento, non c'è mai niente di progettato prima, anzi comincio a fare delle linee e in quel momento mi rendo conto cosa sta venendo fuori, quindi magari dopo un po' invece prendo una direzione, ovviamente, però inizialmente non so cosa sta venendo fuori. E mi sono trovata molto bene con Illustrator perché, se possiamo dire, un po' ti aiuta, aiuta nel senso che ti dà forse un'idea totale di cosa potrà venire, più del foglio materiale forse. E questa cosa mi piace molto perché soltanto dopo mi sono resa conto che la maggior parte dei miei disegni sono animali e figure umane. Non era progettata questa cosa, e è venuta nel corso, ecco. Era ovviamente un tema che volevi indagare. Esatto, sì. E mai lavorato, diciamo, su osservazioni dal vero, diciamo, sono simboli o cose a cui ti sei ispirata della tua immaginazione? È tutta mia immaginazione. Molto probabilmente credo che i miei modelli maggiori non sono tanto la realtà o quello che vedo giornalmente, ma sono più appunto magari artisti che mi piacciono molto, illustratori alcuni disegni che io ho fatto da bambina. Ho riguardato molto cosa io avevo fatto da bambina e certe cose le ho ritrovate, certe cose le ho riprese. Mm-hmm. E quindi ci sono tanti artisti a cui vorrei citare Paul Klee e tutta il bambino di Paul Klee, che lui ha fatto un lavoro grandissimo con suo figlio. Quindi, diciamo, principalmente i miei modelli sono altri artisti, ecco. E qual è la riflessione che desideri un po' suscitare nel pubblico? Diciamo, abbiamo parlato del fatto che sono opere che in qualche modo appunto osservano l'osservatore, no? Quindi cercano un dialogo, parlano all'interno del disegno, ma parlano anche con il pubblico. E quindi, se dovessi avere un po' un'aspirazione rispetto anche a, diciamo, al motivo per cui hai deciso di esporre per la prima volta, tra l'altro, no, le tue opere. E tra l'altro sento di dire, è bello anche magari che tu l'abbia fatto in questo specifico spazio, perché tra le varie anche realtà, diciamo, del mondo dell'arte, eccetera, farlo invece in uno spazio sociale come Exalge, che tra l'altro ha una serie di progetti che hanno proprio questa indagine anche di ritrovare un po' il senso del, diciamo, vivere nel mondo, nella società, con la natura. E quindi non so, trovo interessante anche il fatto che magari la tua scelta di esporre per la prima volta queste opere sia avvenuto anche proprio qui, però appunto è visto anche quindi un pubblico sicuramente sarà eterogeneo, quindi non necessariamente del mondo dell'arte. Che aspettativa un po' avresti? Non so se c'è una domanda un po' che speri di suscitare nell'osservatore. E osservatrici, scusate. Sì, allora direi prima di tutto l'ascolto, l'empatia e un po' anche la leggerezza, perché credo che alcune opere hanno un po' questa idea un po' di sogno, di volare, di leggerezza, e quindi sì, di condivisione, appunto della condivisione che stavamo parlando prima, ma condivisione intesa non di condividere qualcosa, ma di rispetto dell'altro, dell'empatia, che in questo momento storico avremmo un po' tanto bisogno. E Quindi sì, principalmente empatia, leggerezza e positività. E c'è qualche opera in particolare di cui vorresti raccontarci qualcosa? Non so, magari anche solo un aneddoto, non perché ci sia necessariamente una preferenza, ma proprio così come okay. racconto per chi diciamo non ci vede ma ci ascolta e basta. Sì, diciamo forse quella a cui sono una di quelle sono più legata è Passeggiata con Oca, che è stata la prima il primo disegno che ho fatto e che riguardandolo mi dà proprio l'idea di omaggio alla natura, omaggio agli animali, quindi come perché figurativamente effettivamente c'è una figura umana che regge un'oca, esatto, quindi, come un trofeo, quindi diciamo, e anche questo è venuto da solo, è venuto dopo, non ho pensato di realizzare un uomo con, certo. con un trofeo animale, ecco, però dopo ho pensato che questo significato mi rispecchiava, mi piaceva molto e molto probabilmente forse è quello che mi ha dato anche la carica di continuare, no? No, allora ti direi che potremmo avviarci alla conclusione, a meno che tu non abbia altre cose da raccontarci. E no, non so se hai già in cantiere dei progetti futuri o diciamo se non necessariamente hai dei progetti già pensati per il futuro. Ti ho chiesto, no, che aspettative avevi sul pubblico rispetto a questa mostra, ma magari anche invece forse più per te, no? Cioè fare questa cosa, esporre per la prima volta le tue opere, insomma anche tu per te stessa cosa ti immagini per il tuo futuro, che sensazioni anche, non so, immagino ti susciti questo momento, questo progetto. Allora, come progetti futuri possiamo dire, non ho un progetto preciso, ma spero di continuare a sperimentare e appunto perché come in questo caso a volte sperimentare anche una cosa dove inizialmente non ti senti, non pensi che possa essere il tuo, non ti senti a tuo agio, poi invece scoprire cose che invece ti piacciono molto, quindi spero di sperimentare altre cose, altre tecniche, altri modi magari anche di esporre con altre persone e in generale magari che anche questa mostra mi possa dare un po' di coraggio, perché non è sempre facile esporre, far vedere quello che fai. Molto intimo, quindi, sì. Esattamente, quindi specialmente quello, sperimentazione sia a livello appunto di tecniche sia a livello di appunto di condivisione artistica con gli altri. Ottimo, non vediamo l'ora di vederti nelle tue evoluzioni. Non so se ci sono delle domande dal nostro piccolo pubblico. Nessuno? Basta, allora direi che possiamo chiuderla qui e buona inaugurazione a tutte e tutti e venite a vedere la mostra di Nina perché è veramente bella e sarà su tutto il mese, quindi fino a più o meno la chiusura di Exalge a dicembre, per cui avete tempo, non avete scusanti e niente, enjoy the evening. Grazie, grazie. Grazie a tutte, ovviamente a Exalge, al team mitico di Exalge. Edo fa dei toast clamorosi. Clamorosi. Grazie a Coli e vabbè, ovviamente grazie a Nina di aver aderito alle mie pazze proposte. Alla prossima.